Io in realtà sono qui per servizio, nel senso che non è uno dei miei autori. Io peraltro, come più di una volta mi sono trovata a dire, insomma, sono di formazione una storica, quindi queste sono tutte occasioni per me, no, di riflessioni che insomma, allargano, danno respiro, con una, ovviamente con un approccio il più possibile interdisciplinare. Appunto, la cosa che così semplicemente di presentazione che mi viene da dire rispetto al mio percorso personale è un'associazione. Io appartengo a quella generazione di storici cresciuta, diciamo, formatasi tra gli anni 80 e 90, a cui necessariamente si dava da leggere il Prometeo liberato di Landes, no? Per cui appunto questa idea dello sviluppo della civiltà industriale che si svolge appunto tumultuosamente nella grande trasformazione industriale e che ne tematizzava appunto dinamiche, strutture, miti, paure, speranze in tutta la sua complessità. Ecco, quel tipo di analisi era un'analisi che all'epoca ancora, benché per esempio un testo come questo uscito nel scusatemi, il principio di responsabilità uscito nel 1979 avrebbe già potuto, insomma, no, entrare anche nel dibattito intorno alla grande trasformazione industriale, in realtà all'epoca ancora la questione delle ricadute in termini appunto ecologiche e ambientali di questa grande trasformazione non erano tematizzate. Cioè, lo slittamento che mi interessa dal mio punto di vista oggi per presentare, almeno dal mio punto di vista, questo autore è il passaggio dal Prometeo liberato allo scatenato, no? Questa idea che non è questa civiltà, questo mito, insomma, questa dell'industrializzazione è diventato poi nel corso del Novecento non tanto liberato quanto, ripeto, scatenato, cioè con una capacità, no, tecnica di distruzione inaudita, appunto, forse. Ancora per la mia generazione non sufficientemente tematizzata, no? Per cui ritornare oggi a riflettere su questa cosa mi pare almeno per me mi pare un grande arricchimento. Ripeto, io mi sono occupata molto di storia dell'ambientalismo, storia dell'ambiente e un tipo di riflessione come questa interroga moltissimo, però non sono in grado di entrare nel merito, quindi passo subito la parola ai nostri relatori, che sono, li dico non in ordine alfabetico, ma in ordine di intervento, Roberto Franzini, che è alla mia destra, come è ovvio, che è un ricercatore, un docente, un ricercatore universitario e un docente delle scuole superiori, uno potrei dire dei massimi esperti di Hans Jonas in Italia, e invece alla mia sinistra Laura Boella, che è già venuta con nostro grande piacere alla Scuola di Buona Politica anche l'anno scorso a parlare di Bloch, docente di filosofia morale all'Università di Milano, all'Università degli Studi di Milano. Allora, darei la parola subito a Roberto, così entriamo nel merito. Aspetto di sentire quello che dirò. No, intanto vi ringrazio moltissimo per la presenza, ringrazio la Fondazione Basso per questo invito che mi ha lusingato e mi ha anche mobilitato un certo senso di responsabilità, visto che è ciò di cui parleremo. Gli studiosi di Jonas in Italia non sono tanti, per cui è facile, come dire, distinguersi Tra i solo, massimi. sì, tra i massimi, insomma. Però, come vedremo oggi, io volevo proporvi un'introduzione a quest'opera del 79, che è il Principio di responsabilità, che è un testo complesso, per cui scusate se magari dirò delle cose che già conoscete, ma insomma mi servono per introdurre alcuni temi che poi invece mi stanno più a cuore, in particolare due, una è l'educazione e l'altra è la questione politica, che mi sembravano adatti. Poi ho tralasciato anche molti altri temi che si potrebbero trattare, quello della cura, su cui anche Elena Pulcini ha lavorato molto, però insomma volevo concentrarmi un po' su questi due, per cui faccio un po' una selezione anche personale di questioni che possono emergere. E quindi, solo per dare due informazioni su questo libro, che è stato pubblicato nel 1979 e scritto in tedesco dopo tanti anni in cui Jonas si dedicava a opere per lo più scritte in lingua inglese, perché era uno di coloro che all'indomani della presa del potere da parte Hitler nel 1933 dovette fuggire dalla Germania, nonostante fosse stato un promettente allievo di Heidegger e di Bultmann, con un avvenire molto in mente accademico anche sicuro in Germania. Il volume, quindi, dopo svariati decenni che si trova negli Stati Uniti, torna a scrivere quest'opera in tedesco, perché dice è la lingua che in qualche modo sentiva come lingua madre, nonostante fossero passati più di 40 anni dall'emigrazione. E fu un libro che conobbe un grande successo di vendite, nel senso che ne furono vendute più di 200.000 copie. Poi venne tradotto anche in inglese nell'84 con lievi modifiche, e approda in Italia nel 90 con una traduzione che è curata da Pierpaolo Portinaro. Questo solo per collocarlo. È un libro che, tra l'altro, ha esercitato una certa influenza politica, perché sia i movimenti ecologisti verdi in Germania sia la SPD di Schmidt hanno interloquito con Jonas e con le idee presenti nel libro. Quindi, insomma, ha avuto una sua eco, diciamo, letteraria, scientifica e anche politica. E poi volevo proprio solo con una pennellata contestualizzarlo nell'ambito del movimento della storia del movimento ambientalista, diciamo, più o meno formale, ecco, perché in effetti gli anni 70 sono stati anni in cui si discusse parecchio di questioni ambientali, ma anche prima ci furono già dei precursori, che sono per esempio Arthur Lovejoy con La grande catena dell'essere, che è un libro che risale al 1933. Nel 1949 Aldo Leopold pubblicò Sand County Almanac, che è uno dei primi, insomma, testi che si studia quando si fa etica dell'ambiente ancora oggi. Ricordiamo poi negli anni 70, e qui arriviamo proprio agli anni 70, nel 72, pubblicato dal Club di Roma, quel testo divenuto celebre sui limiti dello sviluppo, che per la prima volta il Prometeo liberato di Landes, mi sembra di ricordare che fosse del 69, vero? E tre anni dopo, come dire, questi del Club di Roma, che tra l'altro è interessante perché non erano solo scienziati ma erano anche uomini d'affari e statisti, quindi diciamo un'equipe anche interdisciplinare, richiamò per la prima volta la compresenza di due questioni che dovevano essere tenute entrambe, che sono lo sviluppo ma anche i limiti, no? Perché in effetti la questione dello sviluppo è sempre stata, come dire, tendenzialmente sganciata dalla questione dei limiti dello sviluppo. Si pensava di potersi sviluppare quasi senza limite. Questo nel 72. E poi, sempre nel 72, l'ONU istituisce le conferenze mondiali sull'ambiente, la prima fu a Stoccolma. Nel 73 Arne Naess conia per la prima volta questo termine della deep ecology, quindi un movimento ambientalista radicale, diciamo antropocentrico, mettiamola così. Nel 74 John Passmore pubblica un libro intitolato La nostra responsabilità per la natura. Nel 76 John Bennett, The Ecological Transition, che tra l'altro esprime di recente questa espressione, la transizione ecologica, è stata ripresa a vantaggio di ciò di cui si parlava fino a qualche anno fa, che era la crisi ecologica. Jonas nel suo testo parla di crisi ecologica e per i decenni a seguire si parlò di crisi ecologica. Ultimamente si preferisce parlare di transizione ecologica, per dire che forse, insomma, se già si parte dal presupposto che ci sia una crisi, allora si dà per scontato che non sia risolvibile. Invece, se invece vogliamo pensare che si possa risolvere, dobbiamo pensare a qualcosa di meno traumatico da cui si possa uscire facendo una profonda transizione, però meno traumatica. Poi Gaia, questo volume di James Lovelock nel 79, e poi negli anni 80 Ulrich Beck e la Risikogesellschaft nell'86, e poi, insomma, qui solo per dare alcune informazioni, e da lì in avanti i partiti ambientalisti o di ispirazione ambientalista non sono mai scomparsi. Fa piacere parlarne oggi perché in effetti gli ultimi mesi hanno visto un riaffermarsi cospicuo in Germania, per esempio, di un partito verde, ma soprattutto, e questo magari è ciò su cui tornerò poi alla fine, tra l'altro ho più o meno una quarantina di minuti, vero? Solo per, ok, sì sì, solo per non abusare della vostra pazienza. Uno dei movimenti a mio avviso più interessanti da questo punto di vista, non direttamente di ispirazione jonassiana forse, però su cui la riflessione jonassiana può aiutare a capire delle cose, il movimento dei Fridays for Future, dell'attivista svedese Greta Thunberg, che, insomma, su cui, insomma, possiamo tornare verso la fine dell'intervento. Non so che conoscenza abbiate del pensiero di Jonas, su cui non volevo addentrarmi troppo, però solo darvi anche un'informazione, nel senso che l'opera precedente, che è quindi un consiglio per la lettura, non per gli acquisti ma per la lettura, e questo libro ha avuto come dire, una fortuna monca per certi versi, perché i capitoli 3 e 4, che sono quelli, diciamo, teoreticamente più corposi, non si capiscono se uno non legge l'opera precedente, che si intitolava Organismo e Libertà. Per cui molti hanno fatto una lettura inversa, hanno conosciuto Jonas perché hanno letto il principio di responsabilità e ne hanno avuto una certa idea, tendenzialmente conservatrice, senza mettere in contesto questo libro con la produzione precedente, che Organismo e Libertà, che è un tassello mancante importante per vedere il quadro nel suo insieme. E questo lo dico anche perché in Organismo e Libertà c'è un saggio che si intitola Immortalità ed esistenza odierna, che tra l'altro è dedicato ad Hannah Arendt. Jonas e Arendt erano compagni di università, e, appunto, dove si accenna già alla questione della responsabilità, alla questione della tecnica. La tecnica è uno dei problemi che Organismo e Libertà affronta pressoché tutti i capitoli, quindi la questione della tecnica e della sua problematicità non emerge in principio responsabilità come un fulmine a ciel sereno, era già stato preparato da quest'opera che era Organismo e Libertà, ripeto, pubblicata prima in inglese nel 66 e poi con una versione lievemente modificata in tedesco nel 73, quindi una genesi coerente anche di lungo corso. In più, e arriviamo finalmente a questo libro, che non è un'opera del tutto originale. Oggi sarebbe criticata, noi se presentassimo ai concorsi come ricercatore un'opera di questo tipo, direbbero: ah, ma non è un'opera del tutto originale perché dei capitoli erano già comparsi in precedenza. Infatti il primo capitolo era stato pubblicato nel 73 in lingua inglese in una rivista che si chiama Social Research, che era la rivista della New School, dove Jonas insegnava insieme ad altri, no? Tra cui anche Arendt, eccetera. E quindi, per dire che è un'opera su cui Jonas meditava da tempo. La struttura, proprio anche qui per darvi delle coordinate, sono 6 capitoli, i primi 2 di carattere introduttivo sul pericolo tecnico e sulle sfide etiche legate a questo pericolo, tecnico anche ambientale ovviamente. Il capitolo terzo e il capitolo quarto, dicevo, sono quelli più, diciamo, sostanziali dal punto di vista filosofico, perché hanno una proposta di fondazione ontologica dell'etica che è insomma molto interessante, ma su cui oggi non dirò praticamente nulla. E poi ci sono gli ultimi due capitoli che invece sono qui quelli forse dal punto di vista etico-politico più interessanti, perché nel capitolo quinto e nel capitolo sesto Jonas polemizza contro l'utopismo tecnologico e politico, quindi Bloch, Marx per certi versi, ma soprattutto Bloch. Quindi insomma, tanto per... E lo stesso titolo, il principio di responsabilità, era stato esplicitamente come dire, congegnato. Questo per esempio è anche Portinaro nell'introduzione al volume a richiamarlo in maniera molto lucida. Il principio responsabilità è, come dire, anche dal titolo richiama il suo volersi discostare da un lato dal principio speranza di Bloch e dall'altro dal principio disperazione di Günther Anders, un altro dei colleghi di università, eccetera. Per cui insomma né speranza né paura, ma responsabilità. Questo per come dire, contestualizzare meglio quanto poi dirò. E quindi il sottotitolo è anche interessante perché è un volume che propone un'etica per la civiltà tecnologica. Quindi etica e tecnologia sono le due questioni, anche se vedremo, e questo aprirà un po' di questioni polemiche e di problemi, è un'etica non individuale, o meglio non solo individuale, ma è un'etica che per forza di cose, trattandosi di come gestire l'apparato tecnico, cercherà di farsi anche politica, per cui questo vedremo è abbastanza problematico ma interessante, ecco. E allora arriviamo alla prima citazione, che è verso all'inizio, che però forse non era questa, non mi ricordo. Non è importante, possiamo andare direttamente a questa qua. Questa è la grande scoperta, perché la tecnica, ad avviso di Jonas, è diventata un problema. Perché grazie allo sviluppo tecnico abbiamo per la prima volta nella storia dell'umanità scoperto che la natura è vulnerabile al nostro intervento umano. Cioè l'essere umano può porre fine alla sua stessa esistenza sul pianeta Terra, e questa vulnerabilità critica della natura è quindi una scoperta piuttosto recente che, ad avviso di Jonas, deve essere ancora tematizzata, e soprattutto come dice nel primo capitolo ha a che fare con una modalità nuova dell'agire, una modalità nuova e grazie a cui, e questo lo richiama in una, come dire, in un altro volumetto di cui raccomando assolutamente la lettura, perché è un insieme di interviste che si intitola Sull'orlo dell'abisso, e che come sempre capita nelle interviste uno stile più colloquiale consente di andare anche molto più come dire, al cuore delle questioni. E qui come dire, Jonas, che pure è stato anche criticato per essere un, ripeto, un conservatore, un tecnofobo addirittura, qui lo dice molto chiaramente che non critica la tecnica in quanto tale, ma critica le conseguenze che possono avvenire grazie all'impiego della tecnica. Allora, a molti verranno in mente conseguenze del tipo la bomba atomica, su cui appunto anche altri, per esempio Karl Jaspers, aveva già anche scritto. Però Jonas dice una cosa più sottile, e cioè che sono gli effetti ordinari, normali, quotidiani dell'impiego tecnico a costituire un problema, perché sono cumulativi. Cioè il fatto che io individuo utilizzi la tecnica, ma che così lo facciano anche svariate altre persone, miliardi di persone sulla Terra, genera un effetto cumulativo che ha un impatto sull'ambiente. E soprattutto sono effetti ordinari, cioè non si sta parlando di azioni che hanno il deliberato intento di distruggere il pianeta, hanno, come dire, l'obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone che ne fanno uso, ma nell'effetto cumulativo generale stanno erodendo la possibilità di vita sul pianeta. E soprattutto lo stanno erodendo in maniera irreversibile, per cui cumulatività e irreversibilità degli effetti della tecnica sono aspetti legati al suo impiego ordinario, non bellico e non straordinario. Quindi questo è il problema che evidenzia. L'esito ultimo è che la natura è diventata critica, vulnerabilmente critica, all'impiego tecnico da parte dell'uomo. E poi c'è un secondo aspetto che trovate in questa citazione, e cioè un altro motivo di problematicità dello sviluppo tecnico-economico, ecco, perché in quella citazione, che non so perché, ma poi è saltata dalla mia presentazione, lì sono veramente i misteri della tecnica, e sarà un'astuzia del destino, la trovate qui appunto nella prefazione, dove si cita il Prometeo irresistibilmente scatenato. E Jonas, che come dire è avveduto, quando parla di tecnica non parla di un apparato quasi heideggeriano, parla di tecnica ed economia. Allora, il richiamo all'economia lo trovate nella seconda riga della prefazione, è interessante perché è ritornato di prepotente attualità, perché oggi sappiamo benissimo che il problema è quello, cioè di una tecnica che sia governata da un sistema economico su cui noi stiamo perdendo il controllo, su cui noi abbiamo paura di perdere il controllo, no? Perché ha una deriva algoritmica, automatica, eccetera, eccetera. Allora, questa tendenza qui la trovate già espressa in questa citazione, che invece per fortuna è rimasta, sull'orlo dell'abisso, dove, quasi parafrasando alcuni autori che sicuramente conosceva, per esempio Weber nell'Etica protestante, lo spirito del capitalismo, eccetera, eccetera, questione poi ripresa anche dal sociologo Thomas Merton, dove parla della civilizzazione tecnica che ha in sé la forte tendenza a degenerare nell'esagerazione e nell'incontrollabilità, è quasi una parafrasi della cosiddetta inversione mezzi fini, teorizzata da Weber, ripresa da altri, eccetera, che è il vero problema della tecnica secondo Hans Jonas. Proprio questo, cioè il fatto che il fine che tu ti proponi di raggiungere col mezzo e la modalità tecnica, poi alla fin fine diventa il mezzo di cui si appropria il fine per auto perpetuarsi. Quindi inversione mezzi fini. E questo sappiamo tutti, per l'esperienza quotidiana che abbiamo, che è il vero problema odierno della questione tecnica. E qui allora siamo ancora, diciamo, in ambito descrittivo, no? Perché da queste premesse poi arriva l'aspetto normativo, cioè squisitamente etico e propositivo di Jonas, cioè a suo avviso, ed ecco il sottotitolo del libro Un'etica per la civiltà tecnologica, occorre dotarsi di un'etica collettiva e pubblica, che significa non solo più individuale, che scongiuri i pericoli di cui si parlava prima, evitando di arrivare a una situazione che lui stesso ha definito una situazione della scialuppa di salvataggio, in un altro libro che è una raccolta di saggi intitolato Tecnica, Medicina ed Etica, perché dopo il principio di responsabilità, lo dico tra parentesi per dare un'altra informazione, diciamo di carattere bibliografico, Jonas si occuperà anche di questioni bioetiche, l'eutanasia, il trapianto degli organi, cioè, per cui Jonas è tante cose, no? Noi ci stiamo occupando di una questione che è la questione, diciamo, etico-ambientale, ma c'è anche molto altro di cui ovviamente oggi non parleremo. E quindi l'aspetto etico, infatti nei primi capitoli si critica proprio questo del panorama etico contemporaneo, è che non c'è ancora nessuna etica che sia stata capace di farsi etica pubblica, cioè che si occupi dell'agire collettivo, perché è ovvio che ciascuno agisce individualmente e la propria azione individuale ha delle conseguenze prossime, però poi l'accumulatività di queste azioni fa sì che ci sia un problema che quasi trascende l'individuo e che però deve essere, come dire, gestito dalle persone. E questo problema è di pertinenza di un'etica, per cui, come dire, quella parte della filosofia che si occupa del giusto, dello sbagliato, del bene e del male, ti dice come devi comportarti, di un'etica che non può solo riguardare le azioni individuali, deve mettere a proprio oggetto d'analisi l'agire collettivo degli esseri umani. E capite che questa cosa qui è molto complessa. Quindi, a partire da questo, formula degli imperativi che sono anche abbastanza celebri e che sono a pagina 16, anche questa citazione qui è sparita dal mio radar, chissà perché, ma lo dice, insomma, è forse una delle frasi più celebri: agisci in modo che le conseguenze della tua azione siano compatibili con la permanenza di un'autentica vita umana sulla Terra. Agisci in modo che le conseguenze della tua azione non distruggano la possibilità futura di tale vita. Non mettere in pericolo le condizioni della sopravvivenza indefinita dell'umanità sulla Terra. Includi nella tua scelta attuale l'integrità futura dell'uomo come oggetto della tua volontà. Queste sono le formulazioni dell'imperativo, direi quasi categorico, no? Richiamandosi a Kant, esattamente, ma, come dire, riarticolati in forma ambientale, per l'etica non solo individuale, ma per l'etica collettiva. E allora, da questo punto di vista, per cui se il problema è la gestione della tecnica, se lo, come dire, ciò su cui far leva è l'agire non solo individuale ma collettivo, a suo avviso occorre fare due operazioni. E tutta, come dire, le questioni più articolate e complesse del principio di responsabilità sono queste due. Cioè, la prima è su quale fondamento far poggiare quest'etica. E di questo trattano il capitolo 3 e il capitolo 4. Mi fa caldo solo il pensiero di entrarci e quindi lo salto del tutto. Quindi oggi non si parla di fondamenti. Se volete ci si può entrare, ma sappiate che, come dire, è un argomento per cui se già fa caldo farà ancora più caldo. La seconda questione, però, ovviamente, data la formazione filosofica di Jonas, data la sua specificità, il suo interesse, il suo obiettivo, questa rimane per lui la questione fondamentale, la questione dei fondamenti, e cioè quella di cui si diceva prima con un tecnicismo che spero sia comprensibile, cioè la fondazione ontologica dell'etica. Che significa? Il dover essere deve fondarsi su quello che è, la vita biologica, eccetera, eccetera, eccetera. Ma poi anche altre cose, perché nella vita biologica, appunto, secondo Jonas, si manifesta il principio di libertà, e questo complica le cose, ma su questo non entro. La seconda questione da fare, e su questo invece vorrei proprio, perché è la questione che ci tocca oggi con il riscaldamento globale, come fare a controbattere, eccetera, eccetera, è trovare una strategia efficace per promuovere quest'etica collettiva e per far sì che diventi pratica politica corrente, quindi per trovare una politica ecologicamente praticabile. Questo è il grosso problema che molto probabilmente ci troveremo di qui ai prossimi decenni ad affrontare. Allora, da questo punto di vista, come dire, mi accorgo che sarò molto selettivo sulle parti di principio di responsabilità che volevo, come dire, analizzare con voi nel poco tempo che abbiamo. Ne tralascerò altre, però volevo evidenziare due questioni, no? Quindi una è una questione pedagogica, perché la lotta per il clima, come dire, la lotta per la continuazione della vita sul pianeta ha qualche chance di essere vinta se si fa una pedagogia, no? Jonas non utilizza questo termine, però ci sono un paio di citazioni che vanno in questa direzione. La seconda è riguarda l'elite dirigenziale, le elite politiche. elite politiche, dirigenziali politiche, e cioè gli scienziati, i politici, i governanti, eccetera, eccetera, e in qualche modo anche quest'opera contiene degli stimoli e degli spunti tanto interessanti quanto problematici. Una ultima cosa sarà la proposta di lavorare su istituzioni responsabili, istituzioni politiche responsabili. Anche questo è un aspetto che, come dire, sia l'aspetto, e tra l'altro, allora, c'è chi ovviamente ha lavorato su questo, non solo in Italia, eccetera, però è proprio, come dire, sono aspetti che ho trovato poco nella letteratura secondaria su Jonas e che avrei voluto trovare di più, perché invece sono gli aspetti più urgenti oggi. Quindi come educare al rispetto per l'ambiente, come consigliare all'elite di comportarsi politicamente per far passare un'idea di ecologicamente sostenibile, e ovviamente anche per imbrigliare un po' l'economia o cercare di gestirla. E la terza, quindi queste sono le domande, la proposta potrebbe essere lavorare molto sulle istituzioni responsabili, istituzioni ovviamente molto intergovernative, transnazionali, eccetera, eccetera, perché dato il problema che ha a che fare con la globalizzazione, ovviamente non si può ragionare in termini, come dire, nazionali o sovranisti, ma questo è un altro discorso. Quindi, per quanto riguarda l'aspetto pedagogico, nel principio responsabilità non si parla solo di fondamento ontologico che tu devi comprendere razionalmente e che, se comprendi razionalmente, ti si impone nel tuo agire individuale e tu lo rispetti perché agisci razionalmente, perché sappiamo benissimo che se no saremmo tutti fritti, perché l'agire per lo più è tutt'altro che razionale, no? Ma proprio per questo Jonas non solo parla di fondamento, ma parla anche di senso di responsabilità, che nell'accezione proprio è un Gefühl, cioè è proprio un sentimento. E dal suo punto di vista il sentimento di responsabilità ha a che fare con la volontà, perché è in grado di mobilitare la volontà, è in grado di mobilitare la ragione e di far sì che tu agisca di conseguenza. Per cui non è, come dire, un'astratta teoria etica che ti si impone da fuori, che se tu non capisci sei scemo e allora no, e ti dice c'è questo aspetto razionale, ma deve esserci anche un aspetto motivazionale che mette in moto la volontà, perché mette in moto la ragione e ti faccia fare quello che devi fare. Io l'ho banalizzato un po', però come dire, il senso di responsabilità, e che compare qui per esempio a pagina 117 e 118, è un aspetto centrale. Ci sono 5 o 6 passi del principio di responsabilità in cui emerge il senso di responsabilità come ciò che media la volontà e la ragione, eccetera, eccetera. E io lo trovo estremamente suggestivo e interessante, perché è su questo che mi sembra si possa far leva a livello pedagogico, educativo, perché questo tra l'altro lo sappiamo benissimo, lo dico da insegnante, però si lamenta tanto il fatto che a scuola l'educazione civica, per esempio, a volte viene fatta, a volte non viene fatta, a volte viene fatta male, eccetera, eccetera, ma generalmente la si fa male perché è solo teoria. No, l'educazione civica dovrebbe essere una pratica di cittadinanza. In qualche modo, nel senso di responsabilità, io ci vedo questo, cioè il fatto che la responsabilità per l'ambiente, per il rispetto degli ecosistemi e il rispetto della giustizia sociale, perché non dimentichiamoci che c'è anche questo aspetto della giustizia sociale, no? Ben presente, Jonas ce l'ha ben presente nel principio di responsabilità, che ha a che fare con la questione ambientale, può essere affrontata, come dire, efficacemente se, oltre a proporre un contenuto di riflessione, tu proponi anche una pratica di mobilitazione, una pratica di mobilitazione della volontà. E questo è in qualche modo quello che Jonas ha in mente quando parla del senso di responsabilità. E anche in un altro, sempre sull'orlo dell'abisso, guardate un po' compare il termine educazione, ripeto, non pedagogia ma educazione. Ovviamente i termini non sono gli stessi, hanno due radici etimologiche diverse, però educazione, e sostiene Jonas, la filosofia deve avere un contributo educativo. E dice, può contribuire a far nascere attraverso la sua riflessione e articolazione iniziative per salvare e conservare l'ambiente. Se queste nascono, allora, e qui tra l'altro c'è anche un aspetto interdisciplinare interessante, se nascono queste attività, allora gli economisti, i politici e gli scienziati hanno molto più da dire del più informato dei filosofi. Quindi la filosofia non deve sostituirsi alle discipline che si occupano di ambiente, per esempio. Però, dice, alla filosofia continua comunque a aspettare un compito, che potrebbe essere, detto diversamente, un compito critico, mettiamola così, cioè di sorvegliare che le misure con cui si cerca di fermare la disgrazia siano umane. Questo è un aspetto interessante, perché su questo si è equivocato un po'. Vi anticipo una cosa. Essendo stato a volte anche impropriamente accomunato, come dire, ho considerato conservatore dell'ambiente, conservatore della vita a tutti i costi, eccetera, eccetera, si è anche pensato che Jonas potesse essere il profeta di un'ecodittatura illuminata, che quindi sospendesse le libertà individuali per salvare l'ambiente. In realtà non è proprio così, perché un'ecodittatura, poi lo riprenderò dopo, comunque ha la quasi certezza di scivolare in una misura non umana di gestione del problema. Certo che sopravvivi, ma a che prezzo? A prezzo della libertà, a prezzo dell'umanità, dell'oggetto che vorresti salvare. E quindi il filosofo, dice lui, deve garantire l'umanità di come si mette in pratica l'etica della responsabilità. Perché dice, se no potremmo mandare al diavolo la cosa che si vuole salvare, e lo Spiegel, appunto questa è un'intervista con lo Spiegel, cosa potrebbe andare al diavolo? La cosa diventa alla fine una questione di potere. Se le risorse della terra stanno terminando, allora i più forti potrebbero ottenere con la forza la decimazione dei bisogni umani e del numero di uomini, ecco la questione di giustizia sociale a cui mi riferivo. Questa crudele legge fondamentale dell'evoluzione per cui i più forti sopravvivono non deve diventare la legge della sopravvivenza dell'umanità. Allora la nostra cultura, l'umanità dell'uomo, va veramente al diavolo. Quindi sopravvivenza dell'umanità, ma non a ogni costo. Questo deve essere ben chiaro, perché sennò si rischia di equivocare un po', come di fatto si è equivocato dal punto di vista critico su Jonas. Allora, se si imposta questa pedagogia, come dire, che non deve essere limitata ai governanti, questa è un'educazione per tutti, allora c'è la possibilità che si sviluppi la coscienza ecologica, c'è la possibilità che la coscienza ecologica diventi un habitus propenso all'etica della rinuncia. Anche se, come dire, Jonas è anche consapevole del fatto che questo ponga delle problematiche, nel senso che benché sia possibile è poco probabile, cioè qui c'è poi la transizione alla seconda parte, quindi dalla pedagogia al discorso sulle élite. Perché le élite in Jonas sono così importanti? Perché solo le élite possono garantire l'attuazione di un programma complessivo autenticamente ecologico. E allora, perché se si fa fede solo sulla buona volontà è probabile che questo non sia efficace, e dice lui in una citazione che non è responsabile affidarsi solo a questi fermenti, anche se non li puoi escludere a priori, però comunque bisogna lavorare anche a un altro livello. E allora arriviamo alle questioni dell'Eli, per cui la pedagogia e l'educazione per tutti va bene, ma non è sufficiente, bisogna lavorare anche all'altro livello, che è il livello delle élite. E qui si rivolge in particolare all'uomo di Stato, perché è proprio l'uomo di Stato che ha una responsabilità specifica, per cui dagli imperativi generici agisci in maniera tale che l'attuazione possa, eccetera, eccetera, come dire, come corollario quasi matematico, deriva, come dire, un imperativo per l'uomo di Stato, per lo statista, per il politico, no? Che è questo qui che trovate lì, non fare nulla che impedisca l'ulteriore comparsa dei suoi stimoli, non ostruendo quindi la fonte indispensabile, anche se incalcolabile, della spontaneità del collettivo da cui si debbono reclutare i futuri uomini di Stato, e non producendo nella meta, neppure nella via verso di essa, una condizione in cui i candidati potenziali ad assumere il ruolo dell'attuale politico siano diventati lacché o robot. Ovviamente nell'essere lacché o essere robot è proprio la sfida attuale, perché di essere solo dei passacarte di poteri occulti, algoritmici, la Silicon Valley, eccetera, eccetera, o robotizzati, eccetera, eccetera, che governano la tecno-economia mondiale, ebbene mi sembra di poter dire che siamo proprio qui. E allora la responsabilità dell'uomo di Stato, della donna di Stato, dello statista, della statista, deve essere quindi quello di evitare, cioè di mantenere la propria prerogativa umana, no? La stessa di prima, però con un'attenzione anche rispetto alla propria efficacia politica. Per far sì che la politica futura continui a essere possibile, no? Questo è l'obiettivo. E allora ci sono delle pagine che tra adesso penso di aver capito perché qui non c'è, perché vi sto proiettando il file sbagliato, cioè il file che avevo approntato in un primo tempo e che poi per un pasticcio di rinominazione per cui avevo integrato, ma si vede che per qualche motivo le integrazioni sono andate a farsi benedire. Vi manderò poi quello a Laura che poi farà circolare e vi posso prendere le citazioni in questione, perché sulle élite Jonas si pone a un certo punto la seguente domanda e dice: se, come riteniamo, soltanto un'élite è in grado di assumersi dal punto di vista etico e intellettuale la responsabilità verso il futuro da noi prospettato, come sarà creata un'élite simile? Come sarà fornita il potere necessario per esercitarla? Soltanto un'élite è in grado di assumersi dal punto di vista etico e intellettuale la responsabilità verso il futuro da noi prospettata. Quindi dell'élite non si può fare a meno. E la questione è: se non possiamo farne a meno, come la formi? Di nuovo c'è la questione educativa legata all'élite. E come la doti del potere necessario perché la sua azione possa essere efficace? No, questo l'ho trovato a pagina 188. Due pagine dopo trovate poi la questione che arriviamo, come dire, a discutere, che riguarda appunto l'élite, e cioè perché Jonas sa benissimo, fa riferimento a movimenti, insomma, politici del passato che hanno a fin di bene ingannato il popolo, no? La nobile menzogna, no? Citata a pagina 190. Allora si chiede se sia necessaria una nobile menzogna da parte dei governanti per far sì che passi una linea politica, come dire, ecologista o rispettosa dell'ambiente. Questo l'ho trovato a pagina 190. E lui dice: non inorridisco dinanzi all'idea. Ovviamente questo è uno dei motivi per cui nella ricezione jonasiana, come dire, si è evidenziato che non fosse propriamente un liberale. Quindi qui c'è. Però poi dice: siamo così entrati in una zona ambigua della politica, nella quale il profano si aggira malvolentieri, preferendo lasciare la parola agli addetti ai lavori. Ripeto, la sua opera voleva essere un'opera di etica, non di politica. Questo è bene dirlo, perché se uno legge il principio di responsabilità cercandoci una politica non la trova, e trova questi accenni che lasciano un po' perplessi. Perché di se stesso aveva una idea, Jonas, di un teorico o di uno studioso dell'etica, perché questo tra l'altro mi è stato detto da un Christian Wiese, che è un grande interprete jonassiano, che lo conobbe di persona e che dialogò con lui, e Jonas diceva: ma io non mi considero un filosofo della politica, mi considero uno studioso di gnosticismo prima, di etica, di bioetica, ma non un filosofo della politica. Delle questioni di filosofia politica io tendo a, come dire, vederla o comunque a darla parola, usava l'argomento d'autorità, al mio amico Leo Strauss, che in effetti è implicitamente citato qui, perché la parola agli addetti ai lavori, implicitamente Leo Strauss, perché poi continua a leggere: qui potrebbe rivelarsi necessario un nuovo Machiavelli, che dovrebbe però esporre la sua dottrina in forma rigorosamente esoterica. Qui è un riferimento ovviamente a Leo Strauss, perché studioso di Machiavelli, teorico della scrittura reticente, per cui del fatto che il filosofo della politica deve utilizzare, come dire, un duplice registro, uno esoterico e uno per le masse. Quindi sicuramente non si sente competente di proporre una filosofia politica, però lascia per il momento in sospeso la questione, Jonas. E dice: sarebbe naturalmente meglio e più auspicabile, sotto il profilo etico e pragmatico, poter affidare la causa dell'umanità al diffondersi di una vera coscienza, la coscienza ecologica, per cui Jonas non la esclude. E infatti dice: data l'imperscrutabilità del mistero uomo, questo non va escluso. Sul piano empirico sussistono pochi motivi però a sostegno di tale fede, ma neppure un veto contro di essa. Tuttavia, a mio avviso, non vi si può fare affidamento in modo responsabile. Qui c'è uno snodo fondamentale, nel senso che, ricordate le due questioni che voleva porsi il principio di responsabilità, per cui il fondamento sicuro per l'etica e l'efficacia dell'azione etica a tutela dell'ambiente. È questo che ha in mente Jonas, cioè non solo di proporre una teoria etica rispettosa dell'ambiente che poi possa anche non realizzarsi. Lui era proprio sinceramente preoccupato e intenzionato a far sì che la proposta etica fosse praticabile, cioè potesse diventare effettivamente pratica collettiva. Per questo lui sa che ha bisogno dell'élite. E per questo si chiede: come fai, elite, a far sì che la tua azione sia praticabile ed efficace? Lascia la questione in sospeso e cita appunto la possibilità che, come dire, benché uno si affidi al sorgere della coscienza ecologica, domanda: e se questo non è sufficiente? Lascia l'interrogativo aperto, non è che risponda, perché poi vedremo che successivamente, quando si tratterà di valutare, e mi avvio alla conclusione, quando si tratta di valutare chi dei reali regimi è più titolato o ha più possibilità di realizzare la transizione ecologica, critica entrambi i sistemi allora in vigore, che sono i regimi socialisti reali. Nel capitolo quinto e nel capitolo sesto critica il marxismo teorico e poi dà un'occhiata alla praticabilità dell'esperienza marxista, dicendo che no, anche il marxismo aveva fatto nient'altro che impiegare la tecnica senza criterio, quindi con problemi ecologici. E quindi, dando un'occhiata ai reali regimi socialisti, no, non si trova la soluzione, perché sono irrispettosi dell'ambiente. Dal punto di vista delle democrazie questo è proprio il file sbagliato, scusatemi. Comunque, perché dopo questa parte qui, sui regimi socialisti, ce n'è un'altra sui regimi liberali invece, dove dice che neanche offrono sufficienti garanzie perché sono instabili e sono precari. Però a un certo punto dice anche, e qui volevo, ci tengo a citarlo perché così si capisce dal punto di vista da che parte batte il cuore di Jonas, no? Il cuore etico di Jonas, anche se ci occupiamo di questioni politiche, scrive: ci verrà perciò concesso, certo con il pregiudizio dell'Occidente da nostra parte, che in tutte le sfere dell'attività umana un sistema liberale, finché sia in grado di tutelarsi contro i propri eccessi, questo è il punto, va preferito, quindi un sistema liberale va preferito per ragioni morali ad uno illiberale, persino laddove quest'ultimo può servir meglio più sicuramente alcuni importanti interessi umani. Quindi la sua preferenza va per i sistemi liberali, anche se il problema dei sistemi liberali, e lo abbiamo visto, è quello di non sapersi tutelare dai propri eccessi, con il rischio di generare conseguenze ecologiche problematiche, perché sono instabili e precari. Allora, proprio per questo, e arrivo veramente alle battute finali, a un certo punto parla di istituzioni responsabili, perché sono proprio, e infatti qui sull'orlo dell'abisso, pagina 14, l'intervistatore lo incalza e gli dice: né la democrazia né l'economia di mercato possono fare da cornice la sua etica della responsabilità. E Jonas si smarca appunto puntando sul fatto che la democrazia e l'economia di mercato non possono essere la risposta finale su che cos'è e che cosa vuole l'essere umano, che quindi è qualche cosa di più, no? E deve essere qualche cosa di più questo tutelato. E poi appunto arriviamo alle istituzioni, si diceva, e al fatto che quindi sulle istituzioni e sulla loro responsabilità bisognerebbe puntare, e in quanto ovviamente qui si parla di istituzioni appunto transnazionali eccetera, che però dice non sono ancora visibili. E se Jonas è stato, per cui bisogna lavorarci, perché da questo punto di vista le élite hanno un ruolo da giocare e anche, come dire, i cittadini, quindi nelle istituzioni, nel processo di legittimazione delle istituzioni, nel processo di legittimazione responsabile delle istituzioni, c'è qualche cosa che va ancora fatto. E dice se Jonas è, dati gli ultimi due capitoli della sua opera, è stato dove ha criticato l'utopia di Bloch soprattutto, e come dire anche l'utilizzo politico di alcuni ed escatologico di certe idee utopistiche, e quindi la critica lo ha considerato sempre un antiutopista e perciò un reazionario. In realtà appunto da questa intervista che risale all'81 si capisce come criticare l'utilizzo politico dell'utopia non significa criticare e abbandonare l'utopismo, purché sia, come dire, responsabile. Quindi e infatti parla di, c'è qualche cosa di visionario e utopico nel principio responsabilità. La proposta di lavorare a un'educazione, diciamo, dei cittadini, a responsabilizzare le élite, e questo è ancora un grosso punto interrogativo che lui non scioglie ma su cui forse si può tornare, e lavorare alla creazione di istituzioni responsabili, siano, come dire, tre prospettive che, per cui merita ancora oggi leggere il libro. Ecco, questo in estrema sintesi, sono andato più lungo del dovuto, mi spiace. E c'era anche il file sbagliato, ma cercherò di rimediare anche a questo. Grazie. Scusate. Sono questi più o meno, quindi non ti preoccupare. Allora, okay, passo subito la parola a Laura Boella, così mettiamo la carne a fuoco e poi facciamo la discussione. Ecco. Allora, vado. Dunque, Segnalo subito due passaggi. Il primo è stato segnalato, cioè l'attualità di Jonas esplose in un certo senso nel momento in cui 20 anni dopo, nel 1967, a Principio Speranza era stato dato il libro dei librai, il premio dei librai tedeschi, nel 1987 viene dato a Principio Responsabilità. Quindi a due libri che almeno soprattutto nell'intenzione di Jonas, come peraltro già stato detto, segnavano un passaggio d'epoca, è un passaggio d'epoca proprio dall'utopia, dalla entusiasmo per l'infinità del possibile, con tutte, diciamo, le ridondanze, gli eccessi di Bloch di cui abbiamo parlato anche un anno fa, qui al senso del limite e molte altre cose di cui adesso io parlerò. Volevo però segnalare che la grande, diciamo, attualità di un libro che peraltro poi Jonas medesimo giustifica in questo modo, si è già detto che è stato scritto innanzitutto e pubblicato in tedesco, anche se poi ha avuto molte altre edizioni. Il tedesco che parlava Jonas negli anni 70, quando torna in Germania, fa molte conferenze, e veniva considerato un tedesco arcaico, tedesco degli anni 30, perché lui non aveva più frequentato il suo paese natale. E qualcuno gli consigliò, insomma, di aggiornare il tedesco, di fare un bel editing a questo libro, e lui si rifiutò. Si rifiutò dicendo: io mi occupo di un problema attuale con un linguaggio, il suo tedesco arcaico, degli anni 30 e una fondazione filosofica inattuale. Allora, questo secondo me è un bellissimo gesto anche di autoconsapevolezza, di onestà, che secondo me va molto bene anche per il modo in cui Jonas conclude un ciclo sui classici del Novecento. Cioè, molti dei classici del Novecento sono anche classici proprio perché sono anche in parte inattuali. E di conseguenza quella attualità che sicuramente Jonas, di cui sicuramente Jonas, che lui ha colto con molta intelligenza, negli anni 70 e poi in tutto il modo in cui lui è stato il primo, ma forse anche uno dei più efficaci pensatori di un'etica per la bioetica e anche insomma per la questione del degrado ambientale, forse insomma ineguagliato, non abbiamo forse altri che abbiano avuto uno sfondo e anche un'ampiezza, una ricchezza di pensiero di questo genere. Ecco, però questa attualità di Jonas, come per molti aspetti già è stato detto, si fonda sulla prima mossa di anti-antropocentrismo, di quello che viene chiamato il biocentrismo, cioè sul fondamento del movimento della vita, della dinamica della vita. Ricordiamoci che il suo libro, poi non so, non mi ricordo più esattamente se è uno di quelli tradotti in italiano, però con un altro titolo, però il suo libro sulla filosofia dell'organismo, nato nelle trincee della Seconda Guerra Mondiale, è intitolato in inglese The Phenomenon of Life, il fenomeno della vita proprio in senso fenomenologico, cioè come esperienza originaria, nuda e cruda, potremmo dire, no? Cioè proprio come qualcosa che sta prima e fonda ogni norma, ogni precetto, ed è proprio di qui che il biocentrismo e l'essere uguale dovere, poi tutte le cose che verranno dopo, in principio responsabilità, si spiegano. Allora, la sua grande intuizione è stata poi legata appunto e interpretata in maniera anche disparata per quanto riguarda la bioetica, per quanto riguarda l'ambientalismo, ma credo sia necessario oggi notare un ulteriore passaggio, nel senso che saprete che la questione del vivente e quindi una ripresa proprio del tema della vita a livello filosofico, a livello anche scientifico, no? Biologico, eccetera, ha segnato, diciamo, la cultura degli anni, diciamo, già anche gli anni 2000, anni 90, anni 2000. In fondo tutto il trionfo della biopolitica e poi della politica della vita, se vogliamo tradurlo nei termini anche di Rawls. Insomma, in ogni caso è stato un grande tema che ha poi portato alla riscoperta di Bergson, insomma, moltissime modulazioni, quindi ha segnato appunto le preoccupazioni legate alla genetica, come legate alle questioni dell'etica medica, dell'etica clinica, ma sicuramente anche le questioni legate al superamento di una visione antropocentrica per quanto riguarda il vivente, per cui insomma il biocentrismo di Jonas è diventato anche l'ecocentrismo, è stato citato, no, Arno Naes, no, questo tema della interconnessione, no, del mondo umano, della specie umana con tutto il vivente animato e non animato. Ora, questo che poi è il grande sfondo dell'ambientalismo, sta subendo e ha subito proprio negli ultimi anni un sovvertimento totale. Perché? Perché il cosiddetto biological turn, in cui rientra anche il grande successo della neurobiologia, della neuroscienza, degli studi sul cervello, il biological turn oggi in campo di etica dell'ambiente, di studi legati al riscaldamento globale, è stato sostituito dal cosiddetto geological turn, cioè dal primato del vivente siamo passati al primato del geologico. Perché? Perché ormai si parla giustamente del passaggio, anche se la questione dal punto di vista geologico, stratigrafico, scientifico è ancora controversa, dall'Olocene all'Antropocene. Ora, Kruse nel 2000, che è fisico dell'atmosfera, lo scopritore del buco nell'ozono, propone così, con un intuito un po' fantasioso, in un seminario, di chiamare l'epoca che ancora veniva chiamata nel 2000 e tuttora alcuni vogliono chiamarla Olocene, di chiamarla Antropocene. Perché dare questo nome a una nuova era geologica? Perché l'impronta umana sull'ambiente ormai è una forma di scrittura anche sulle rocce, sugli strati più profondi. Per esempio nei ghiacciai dell'Antartide ormai si trovano tracce di energia atomica, si trova plastica. Insomma, ormai è un tema molto studiato che sta completamente rovesciando l'ambientalismo, insomma, corrente, green, insomma, che noi ben conosciamo, e sta mettendo poi anche a nudo alcune contraddizioni. Insomma, 72, tu hai citato i limiti dello sviluppo. Ancora oggi lo sviluppo sostenibile è un mantra dell'ambientalismo, però se permettete l'antropocene ci fa pensare che sia un double bind, cioè è una contraddizione in termini sostenibilità e sviluppo. E dato che qua sono degli economisti, secondo me sarà meglio anche fronteggiare questo elemento di realtà. Allora, siamo nell'epoca in cui la questione del riscaldamento globale è una questione, c'è un stratigrafo bravissimo, Zalasiewicz, che parla di una pietrificazione dell'antropos, no? Cioè ormai, e quello lo diceva già Kruse nel 2000, cioè l'Homo sapiens è diventato una forza geologica, come le meteoriti che hanno segnato, no, il passaggio da un'era geologica ad un'altra, per esempio la scomparsa dei mammut, eccetera. Oggi l'Homo sapiens esercita sui processi naturali lo stesso tipo di forza. Sapete che forza vuole anche dire violenza, no? Vuole anche dire impatto, no? È un'energia di pari grado. Allora, è chiaro che, secondo me, parlare del principio del phenomenon of life di Jonas oggi vuol dire anche fare i conti no? Con questo mutamento proprio della nostra consapevolezza del degrado ambientale e della catastrofe imminente. Allora, quindi con questo dico che Jonas, come tutti i classici, ha un margine di inattualità che può essere anche molto utile proprio, no? Come diciamo termine di confronto. Inattualità che tra l'altro, forse questi aspetti appunto, sono contenta che l'utilissima introduzione ad alcuni temi di Jonas però mi lascia anche uno spazio per osservare come nel momento in cui Jonas nel principio di responsabilità ci propone una nuova etica per l'epoca tecnologica, ecco, Jonas si contrappone da un lato a Bloch e dall'altro principio di disperazione del primo marito di Hannah Arendt, Günther Anders, che probabilmente con cui aveva qualche conto, proprio perché Jonas è stato anche innamorato di Hannah Arendt all'epoca. Insomma, scusatemi, io faccio sempre questi riferimenti, ecco, un pochino frivoli. Dicevo, si contrappone a Bloch e all'illimitatezza della categoria di possibilità, della fiducia nella possibilità di Bloch, si contrappone, verissimo, anche principio disperazione, però nel suo testo campeggia il tema della paura. Non è che non ci sia il tema della paura, c'è e come. Allora, e com'è che figura il tema della paura? Figura proprio in uno dei nodi chiave e probabilmente che sono stati ampiamente istruttivi e che forse, nonostante la loro, il loro contesto inattuale, forse oggi ci parlano ancora di più di 30 anni fa. Ovvero, lui è stato il primo che ci ha insegnato a leggere il futuro come una minaccia, no? Lui ha parlato di una euristica della paura, ovvero ha detto proprio la minaccia che ci viene dal futuro, la minaccia di non avere più una terra su cui, cioè noi e i nostri nipoti, non avere più un'aria da respirare, una terra, diciamo, su cui poggiare i piedi come, con la solidità, insomma, a cui erano abituati i nostri genitori. Ecco, questo tipo di minaccia e di paura, di angoscia, è un elemento fondamentale per capire il presente. Ora, è un elemento fondamentale per capire il presente e come tale ci gli ha permesso poi di introdurre i temi che sono diventati i classici della bioetica e anche dell'etica ambientale, che sono i temi del limite, del rispetto, della fragilità della natura. Ecco, è vero che lui è stato il primo a parlare di vulnerabilità e fragilità della natura. Oggi però dobbiamo anche fare i conti con studiosi di ambientalisti che scrivono, c'è una caterva di libri intitolato The End of Nature, la fine della natura, intitolato Ecology Without Nature, ecologia senza natura. Cioè, oggi abbiamo fatto antropocene, un passo ulteriore. Ci troviamo a parlare di ecologia facendo i conti con una natura snaturata. Prometeo si sarà scatenato, liberato dalle sue catene, ma anche la natura ormai è completamente snaturata. Allora, dalla fragilità della natura, dalla vulnerabilità, da questo senso, insomma, molto antico, molto greco, no? Anche della bellezza, della finitezza, che in questo senso si accoppia alla natura, alla finitezza della vita umana, però siamo andati oltre, quindi vuol dire che le cose, insomma, stanno andando, procedendo forse in maniera sempre verso il peggio. Allora, proprio questo tema della paura come strumento che ci aiuta a comprendere il presente, cioè l'esperienza che noi viviamo, e si accompagna appunto a questo tema del futuro che ci fa paura e che ci minaccia. Allora, qui almeno io leggo, ho sempre letto in Jonas, insomma, un forte senso della catastrofe, ed è proprio su questi temi che noi oggi possiamo anche sentirlo vicino, no? E dove sta questo forte senso della catastrofe? Sta nell'altro pilastro, insomma, fondamentale del suo pensiero, che è il suo riconoscimento del mutamento dell'agire nel mondo contemporaneo. C'è, vabbè, è stato già citato l'inversione del rapporto mezzo-fine, ma lui, quando critica Kant e l'etica kantiana, la critica proprio sulla base del fatto che lo schema dell'obbligo e del dovere in Kant sia uno schema, lui dice, sostanzialmente logico, nel senso che ad una causa deve seguire un effetto. Dice, questo schema non funziona in etica se noi parliamo appunto di agire, di condotta, di come comportarci. Non può più funzionare proprio perché l'agire umano oggi si proietta in un ambito in cui i suoi effetti non sono prevedibili, nel senso appunto che riteneva Kant, cioè appartengono ad un orizzonte perlomeno di pensiero logico, se non di esperienza individuale. Gli effetti del nostro agire oggi superano, oltrepassano enormemente la vita e la comprensione umana. Pensiamo soltanto, per esempio, all'inquinamento di un torrente da parte di un'industria, non è che si verifichi il giorno dopo, no? Cioè il deposito di sostanze tossiche può appunto avvelenare le falde acquifere dopo 20 anni, dopo 30 anni. Lui alludeva esattamente a questo, e questo tema di un agire fuori controllo, sostanzialmente, no? Sottratto alla possibilità di controllo delle sue conseguenze, questo che è un dato legato all'abuso, all'indifferenza, allo sfruttamento delle risorse naturali, per lui si riverbera immediatamente sull'etica, perché un'etica che controlla e governa, per esempio, pensate all'etica della responsabilità di Weber, no? Era l'etica che, se non era quella dei mistici visionari, no? Delle anime belle, ma era l'etica vera della responsabilità, era un'etica che faceva i conti con le conseguenze dell'azione, si assumeva la responsabilità delle conseguenze dell'azione. Per Jonas, in un agire che ormai non può più governare, controllare i suoi effetti da parte di chi lo ha innescato, ecco, un agire di questo genere è chiaro che non può più giustificare o rinviare ad un'etica fondata appunto sulla relazione prevedibile tra un comportamento e il suo esito. Allora, è proprio di qua che il tema della responsabilità, e questo bisogna dirlo, però lui lo ha completamente rinnovato, no? Perché la responsabilità in senso legale, perché il concetto giuridico di responsabilità è la base del concetto morale di responsabilità, è una responsabilità cosiddetta retrospettiva, no? Allora, io ho compiuto un atto, prodotto un effetto, il mio agire ha modificato qualcosa nella realtà, ed ecco che allora io sono imputabile, no? Di ciò che è conseguito al mio agire, però deve esserci stato un avvenimento legato al mio agire. È vero anche che poi il diritto aggiunge, c'è il dolo, ma c'è anche la colpa, c'è la negligenza, il diritto aggiunge anche la responsabilità oggettiva, per esempio in macchina, no? Sono anche forme di responsabilità oggettiva, per cui non c'è né negligenza né intenzione di provocare un danno, ma c'è un danno provocato per esempio ad una persona per circostanze completamente indipendenti dalla volontà. Allora questo, che il quadro convenzionale, tradizionale della responsabilità, viene totalmente innovato da Jonas nel momento in cui lui, proprio partendo dalla premessa di un agire che non può più controllare e governare i suoi esiti, le sue conseguenze, allora ci parla di una responsabilità prospettica, no? Cioè di una responsabilità che può derivare anche da ciò che io non ho fatto. Ecco che qua lui tocca un aspetto che è molto delicato, è importantissimo per sia la bioetica e sia anche poi oggi per le questioni ecologiche. Cioè possiamo imputare a Xi Jinping piuttosto che a Putin, piuttosto che a uno dei nostri capri espiatori, eccetera, la responsabilità, cioè ad un individuo in carne e ossa, per quanto dotato di poteri sovrumani, la responsabilità in carne e ossa della acidificazione degli oceani? È chiaro che possiamo allargare il campo a industriali, a multinazionali, eccetera, ma purtroppo, perché sarebbe forse più semplice, responsabilità individuali o comunque che abbiano nome e cognome o almeno nome di una ditta, per quanto riguarda il riscaldamento globale, è difficile trovarle. E forse, probabilmente, Jonas ha intuito proprio questo. Ha intuito che la responsabilità che lui riteneva dovesse essere messa alla base di un'etica per un'epoca tecnologica, fosse una responsabilità slegata dal compimento concreto di un atto, cioè la responsabilità assunta da qualunque abitante del pianeta nei confronti proprio della sopravvivenza delle condizioni basilari di vita. Ecco, già queste cose, secondo me, potrebbero sollecitare domande dell'oggi rivolte a Jonas. Allora, forse noi lo sentiamo, parlante a noi che dobbiamo riflettere sull'antropocene, proprio per questo suo senso della catastrofe, della catastrofe imminente. Secondo me lui ce l'aveva, della catastrofe imminente, del fuori controllo, della sostanziale ingovernabilità di processi che non sono più riconducibili, no? Come convenzionalmente, a gesti di individui, gruppi o associazioni. Pensate al problema oggi giustamente vivo dei ricchi e dei poveri. D'altra parte anche i paesi asiatici, no? Stanno inquinando, facendo aumentare il CO2 in maniera esponenziale. Dobbiamo dire che siamo colpevoli solo noi e loro non sono colpevoli? C'è per esempio Ghosh, che secondo me ha scritto un libro bellissimo su questi argomenti, di origine indiana, che dice in fondo i paesi India, Cina, sono purtroppo gli idioti del villaggio, vittime carnefici, quelli che hanno fatto la corsa, no? Per ben giustificata, no? Per migliorare il loro livello di vita, eccetera, e che oggi ne sono le prime vittime, no? Se pensate all'inquinamento a Pechino, eccetera. Allora, questa nuova nozione di responsabilità, insomma, nel suo radicale pessimismo, direi proprio nel suo metterci di fronte a contraddizioni grosse e dilemmatiche, forse noi la sentiamo vicina, però direi che non è questo probabilmente il modo in cui Jonas è assurto a padre, no? Dell'ambientalismo, in parte anche appunto non solo il limite, il piano inclinato, la cautela, no? La prudenza, insomma, la china scivolosa. Ecco, lui è stato veramente i nonnati, la responsabilità verso le generazioni future, no? Ha proprio immesso in bioetica e in etica dell'ambiente temi che sono stati estremamente fecondi. Ma proprio per questo, diciamo, merito, insomma, molto grande che gli si deve riconoscere, allora sinceramente io vedo come, come in gran parte diciamo superato, proprio superato il suo, quello che lui insomma già nel 79 considerava un riferimento, un background filosofico inattuale. Allora, per prima cosa, il modello parentale, no? Allora, lui ritiene che quella responsabilità che non è fondata su di un obbligo normativo, non è appunto il vecchio modello del dovere, insomma, che ci chiama ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro, ma al contrario, ed è stato detto giustamente, è fondato su di una, diciamo, su qualcosa che ci spinge, forse a livello emotivo, ma è un senso di responsabilità, ma ancora prima è qualcosa di basic, proprio di elementare, quel movimento della vita che nasce per Jonas proprio dal bisogno di una creatura che si trova quotidianamente di fronte alla mancanza, al bisogno di farcela, no? E quindi di andare avanti. Uno degli elementi per cui gli piacevano i paesi del socialismo reale era che si basavano più sui bisogni che sul profitto. Ricordo che Agnes Heller ha scritto col marito più sui bisogni che sul profitto. Lui, quando parla di democrazie liberali da un lato e dall'altro di paesi prima della caduta del muro, ne parlo ovviamente, allora diceva ma forse è meglio questo fondarsi sui bisogni, anche se poi criticava eccetera. Ricordo che Agnes Heller e suo marito hanno scritto un libro, La dittatura dei bisogni, perché insomma su queste cose insomma insieme a Jonas è stato l'unico, no, a parlare. Allora, dicevo, questo modello parentale è veramente un punto di snodo fondamentale nella sua etica e che collegata alla sua filosofia della vita o alla sua filosofia dell'organismo, nel senso che lui ritiene che quel dovere, che non è più kantiano, ma è, diciamo, una spinta dell'essere, una spinta vitale, quel dovere ha il suo modello, ancora una volta proprio basic, nel rapporto tra i genitori e il neonato. Nel senso che il neonato si presenta ai genitori come un essere inerme, no? Che urla strepita ma non sa assolutamente esternare e formulare i suoi bisogni. È un essere fragilissimo, completamente nelle mani dei genitori per la sua sopravvivenza. D'altra parte, nessun genitore, almeno diciamo tranne casi patologici, può sottrarsi a questo obbligo di mantenimento della vita del proprio prodotto, del proprio figlio, questo insito, no? Nella generazione e nella procreazione. Dunque, questo modello di responsabilità originaria, di obbligo fondato sulla necessità di garantire la sopravvivenza di un essere completamente indifeso, e questo modello che secondo lui sta alla base di un'etica della responsabilità e che lui, io aggiungo, perché ci sono dei passi in questa, sarebbe anche il modello dello Stato, perché lui propone un modello in cui lo Stato come un padre collabora alla sopravvivenza, in senso lato, anche dei suoi cittadini. Allora, intanto è modello parentale e io sinceramente qualche piccolo punto interrogativo lo metterei, no? Perché qui siamo di fronte ad un, diciamo, sguardo gettato sul mettere al mondo e sulla nascita, no? Perché il tema, insomma, di un neonato ci fa confrontare, no? Con la nascita, in cui viene alla luce uno slittamento abbastanza interessante. Ora, Jonas ha scritto cose, soprattutto diciamo negli ultimi anni della sua vita, quando purtroppo Hannah Arendt era già morta, ma cose in cui ha dimostrato di apprezzare molto il tema della natalità in Arendt, no? Però il tema della natalità, anche se non aveva niente a che vedere con il materno, delle filosofie femministe, della cura, eccetera, non sto sollevando questo tema, questo problema, che c'è però nel modello parentale, c'è, perché chi dà la vita è la madre, no? In ogni caso è un problema che possiamo lasciare da parte. Il tema della natalità, che peraltro Jonas ha apprezzato in Hannah Arendt, non è esattamente il tema della vita. Il modello parentale in Jonas è il modello elementare, primordiale, di garantire la sopravvivenza, no? Di un essere inerme, e che lui traspone esattamente all'obbligo che il genere umano oggi ha di garantire la sopravvivenza del pianeta, dell'aria da respirare, quindi anche di garantire la sopravvivenza dei nostri nipoti e di tutte delle generazioni che non sono ancora nate. Anche questo è stato un tema poi molto discusso, no? Perché molti sono chiesti, ma i non ancora nati, non sappiamo loro cosa vorranno, cosa ci chiederanno. Anche questo è un modello un po' paternalistico, volendo, no? Cioè che noi ci facciamo garanti di qualcosa senza non possiamo interpellarli, no? Questo lo dico soltanto per segnalare come siano stati fecondi, ecco, questi temi, anche quando sono stati discussi. Allora, però, mi interessava sottolineare il fatto che il tema della sopravvivenza, della vita come valore originario, no, che sta a fondamento di un'etica della responsabilità, in Jonas sia qualcosa che sicuramente è spiegabile attraverso la generazione di quelli che hanno vissuto la Shoah, no? E in generazione alcuni dei quali però erano stati anche allievi di Heidegger, no? E quindi avevano introiettato il tema della morte, dell'essere per la morte di Heidegger. Ora, questa, io parlavo prima appunto di un orizzonte insomma abbastanza catastrofista, comunque abbastanza oscuro, questa minaccia del futuro, no? Che bene o male Jonas ha insegnato a tutti noi, che oggi poi giovani provano, vivono in prima persona. Ecco, però, insomma, questo tema in Jonas è un tema che sicuramente ha delle fonti heideggeriane, l'essere piuttosto che il nulla, no? Lui lavora moltissimo quando parla di vita e di metabolismo proprio su questo essere nulla che si rincorrono. E anche quando, appunto, in quel bellissimo brano in cui lui ricorda la sua esperienza nelle trincee della Seconda Guerra Mondiale, no? Lui fu combatté in una parte dell'esercito britannico che era appunto la brigata ebraica, e parla appunto del suo essere in trincea senza libri, e parla di un punto zero. Era effettivamente in un punto zero in cui era in pericolo di vita, costantemente in pericolo di vita. Racconta: ci spostavamo con tende, eravamo soltanto impegnati a gestire le nostre baionette, eccetera. In questo momento, secondo lui, proprio ha percepito la svolta del suo pensiero, no? Cioè ha percepito il fenomeno originario della vita, no? Come fenomeno che poi lui ha studiato proprio per mettere insieme quegli elementi di cultura e natura, di soggetto e oggetto, che la filosofia, che lui è convenzionale, aveva separato. Allora, una esperienza del genere, ricordo che termini analoghi li ritroviamo in un filosofo come Jan Patočka, che anche parla dell'esperienza del fronte, citando Teilhard de Patočka, filosofo ceco, che 1907, quindi un anno più dell'Arendt, Jonas del 1903, quindi sono tutti della stessa generazione più o meno, anche lui studioso di Husserl, grande fenomenologo Patočka, anche grande interprete di Heidegger, quindi hanno una matrice comune. E anche Patočka parla dell'esperienza del fronte, citando Teilhard de Chardin, come l'esperienza in cui essere a tu per tu, faccia a faccia, sul bordo della vita e della morte, ecco, implicava, diciamo, trovarsi ad un punto zero, quindi ad una resa dei conti fondamentale, non solo di tipo filosofico, ma anche di tipo esistenziale. Ora, parlavo della natalità in Arendt. Ecco, Arendt ritiene che questa, la generazione di, degli allievi di Heidegger, appunto Anders, che poi sono stati molto dissidenti nei confronti di Heidegger, comunque Anders, Jonas, comunque fu una generazione dominata dallo spettro della morte, cosa comprensibilissima poi che chi, per chi ha vissuto l'esilio, la Shoah, eccetera. D'altra parte, lo spettro della morte sta dietro, chiamiamola, l'inno alla vita di Jonas. Allora, se chiaramente è stato elaborato da Jonas in un senso estremamente, come ho già detto, per molti aspetti estremamente significativo, ma dicendo questo, diciamo anche che il tema della natalità in Arendt non è la stessa cosa di una elaborazione della vita proprio come antagonista della morte, no? Non che trionfa sulla morte, Jonas non ha mai pensato, ma comunque per lui la vita come fondamento ontologico ha una forza, no? Che porta avanti attraverso la cura, prima del neonato, poi della natura fragile, il rispetto ed eventualmente anche una certa ascesi, no? L'élite di cui si parlava, secondo Jonas, devono essere le prime a impostare un modello di vita ascetico che è anche di rinuncia a favore di quelli che hanno molto di meno, proprio per mostrare, diciamo, che sia la possibilità di vivere in maniera diversa. Perché adesso, come vedete, appunto sto più che altro mettendo fuori alcune domande, sicuramente non delle tesi dogmatiche. Ecco, concludo su questo tema. Ci sono ovviamente affinità profonde tutta la generazione di cui stiamo parlando, ma non è un caso, secondo me, che la natalità di Arendt sia il gesto dell'inizio, no? Ogni essere, ogni nuovo essere che entra nel mondo e viene accolto nel mondo, no? Quindi non è una novità assoluta, ma viene accolto nel mondo, porta, rappresenta un nuovo inizio, porta un novum che diventa il modello di quella serie di nuove nascite che noi compiamo ogni volta che agiamo. Cioè l'agire per Arendt, come probabilmente voi sapete, è una forma di automanifestazione, per cui si abbandona che cosa? Si abbandona proprio il contesto, la sicurezza vitale, no? I legami, la protezione, per esempio, del privato, della famiglia, dei legami di sangue, anche dei legami, per esempio, di appartenenza etnica, eccetera, e ci si espone allo sguardo altrui. E qual è la quintessenza dell'agire come nuovo inizio e come libertà per Arendt? È il ne va di qualcosa d'altro rispetto alla vita. Chiudo ricordando il fatto che Patočka, che è molto più, diciamo, forse vicino a Jonas per questo tema dell'esperienza del fronte, del faccia a faccia con la morte, ecco, Patočka però trasse, almeno negli ultimi saggi eretici, trasse da questo tipo di esperienza l'idea e la tesi di una costante disputa con la vita, cioè della necessità di affermare la propria libertà interrogandosi sul senso della vita, che non è la sopravvivenza. No, sapete tutti che Patočka morì in seguito di infarto, in seguito a un interrogatorio particolarmente duro della polizia praghese, dato che era grande filosofo, grande fenomenologo, però aveva scelto negli ultimi anni della sua esistenza di essere portavoce di Carta 77, quindi un chiaro atto di sacrificio etico-pratico, etico-politico. Allora, il tema, secondo me, il pensiero di Jonas, che per tanti motivi oggi, diciamo, sembra essere vicino a noi, no? Quei motivi, secondo me, la paura, la minaccia del futuro, il senso imminente della catastrofe, quindi anche una, diciamo, responsabilità che non va più a cercare il colpevole, che non vuole più, diciamo, il risarcimento del danno, ma una responsabilità che ci impegna anche rispetto a ciò che non abbiamo fatto, anche se non siamo industriali trucidi, però siamo responsabili comunque, no? Del riscaldamento globale, eccetera. Ecco, questo pensiero però, proprio anche nei punti in cui si avvicina al nostro presente, all'antropocene, rischia di assestarci o di portarci in direzione di quel valore della sopravvivenza che oggi è una grande, secondo me, minaccia, no? All'impegno. Non a caso, per esempio, i temi ecologici sono stati ampiamente, anche nei partiti di sinistra, scalzati dal problema della disoccupazione. Oggi molti pensano che l'ecologia sia una cosa da abitanti delle zone, diciamo, del centro storico delle città, mentre invece le periferie hanno il problema della disoccupazione giovanile, Detroit, pensate ai disoccupati di Detroit e tutto quello che è a chi per anno votato, no? Allora il tema della sopravvivenza è il grande, diciamo, spettro della paura, no? Cioè, dobbiamo sbarcare il lunario, ecco, dobbiamo garantire appunto la sopravvivenza materiale, eccetera, dei nostri figli, nipoti. L'ecologismo può rischiare, o il tema del riscaldamento globale può rischiare anche di essere inteso in questo modo, no? Sto parlando, non sto scagliando, diciamo, accuse nei confronti di nessuno, ma sto parlando di, diciamo, cose che appartengono un po' all'atmosfera culturale, ideologica che stiamo vivendo. Ed è, diciamo, una posizione, allora chiudo, quella di Jonas, direi, bella, proprio anche per, diciamo, la contraddittorietà in fondo, no? Del pensiero di Jonas, forse anche l'inattualità, soprattutto degli aspetti, secondo me, politico, pedagogici del suo pensiero. Allora, grazie tantissimo, tanto io non ho bisogno del microfono, facciamo pausa. È brevissima anche perché Laura deve andare via. Dalle 5 e mezza. Sì, per cui facciamo il tempo della mia sigaretta, quindi prendete me come Grazie. Ah, sì, ok, va bene. Allora, ci siamo? Allora, posso dire, diciamo, posso dare le regole del gioco, così poi, allora, siccome, no, Considerando appunto che Laura deve andare via alle 5:30, pensavamo appunto, e noi poi magari invece possiamo rimanere un altro pochino, intanto di sfruttare al massimo questa presenza, quindi di, se ci sono delle domande specificatamente rivolte a lei, suscitate dalla sua relazione, intanto magari cominciamo a raccogliere quelle e poi proseguiamo. E brevi, a proposito delle regole del gioco, questa era la cosa fondamentale. E, quindi, non so se la domanda che voleva fare lei risponde a questa... Commento su questo solo dicendo che questi pensatori insomma fanno iniziare l'etica, e in particolare poi Jonas, ma anche Günther Anders sicuramente, il quale Günther Anders però ci invitava a immaginare, a immaginare la catastrofe, no? Che è un po' anche la mossa di Beck, no? Anche Ulrich Beck, no? Parla di un'immaginazione che è una forma di attivismo politico. Ci aiuta a prevenire il futuro, quindi in ogni caso qui il problema che io vedo adesso, a prescindere dal fatto che utopia, speranza, insomma sono tutte parole anche qua da forse reimparare, il problema è di un'esperienza insomma tragica del Novecento e che si è ancora insomma che continua ancora, che rischia di portare l'etica a incominciare dal male. Ecco, io sono convinta che un'etica non possa cominciare dal male, no? Cioè che tipo, un'etica che comincia dal male è un'etica per forza appunto del limite, del no, della, chiamiamola anche della prevenzione. Però un'etica credo che debba essere un'etica che apre verso qualcosa, insomma, una volta si chiamano ancora ideali, no? Anche per quanto impossibili. Cioè il problema dell'etica e probabilmente anche della politica oggi è questo. È una domanda, però dobbiamo porcela anche per i giovani. No? In fondo stiamo vivendo giustamente anche dell'elaborazione di un passato catastrofico, in fondo anche insomma, la Shoah da un lato, i totalitarismi, oggi l'impronta umana sull'ambiente che è l'impronta della bomba atomica, l'impronta dell'abuso diciamo, dei combustibili fossili, eccetera. Ecco, vero. Dobbiamo elaborare questo, però se dobbiamo trovare dei principi dell'agire che ci portino a una direzione diversa, non è sicuramente dal negativo che ci possono venire. No, ho visto un gesto che non mi era chiaro se era... Certo. Esatto. Siete obbligati a farmi domande. No, era una... Mi sembra che dato che devo andare via. Sì, esatto. Se avete domande per lui... No, io, allora se non c'è... Non ci sono altri che hanno un'intensa, dico io qualcosa sempre... Io credo che lo spirito con cui conduciamo questo ciclo, per i nostri nipoti, che immagina è molto sfumato e sofisticato sul tema dei bisogni. Il tema dei bisogni è un tema che in lui gli consente di riagganciarsi alla riflessione di Marx sul criticismo della merce, sui valori di uso, sui valori di scambio. Quindi anche il tema dei bisogni ha una grande complessità che dovremmo analizzare, non nel senso dell'illimitatezza, che è anche un'illimitatezza profondamente irrazionale, come dicono tutta una serie di studiosi e anche teorici del capitalismo, che vedono una sua contraddittorietà che porterà ad autodistruggersi proprio in relazione a tutto ciò. E il tema della disoccupazione legato a quello dei bisogni, io non vedo tanto che oggi ci si occupi soprattutto della disoccupazione e dell'occupazione, io vedo proprio il contrario. Dopo il neoliberismo, con l'accettazione della teoria che l'unica efficienza era quella guidata dal mercato, si era abbandonato l'obiettivo della piena occupazione e buona occupazione, perché non era solo questione di piena, e oggi non c'è una malsana accettazione della precarietà, della contraddittorietà e così via. E anche rispetto a questo c'è un modo di fare un ragionamento sulla sostenibilità che accetti un aspetto quasi stagnazionistico della crescita in termini proprio di PIL. Il grande teorico di tutto questo è Stuart Mill, già 100 anni fa, ma ci sono tutta una serie di, che non sono necessariamente le riflessioni della decrescita felice, ma insomma di altri autori, ecco, rispetto ai quali potremmo avere un atteggiamento più positivista, mi domando. No, ovviamente insomma, non è una domanda a me, perché non sono economista, spiego soltanto. Allora, per quanto riguarda i bisogni, ecco, potremmo rileggere un testo del 68 di Gneseller, La teoria dei bisogni di Marx, dove proprio c'era, come tu dici giustamente, con riferimento ai Marx e manoscritti, alla ricchezza dei bisogni, no? C'era l'idea dei bisogni radicali, che non sono ovviamente bisogni da consumo eccetera, ma quelli che non possono essere soddisfatti nella società così com'è. Poi Heller è andata molto avanti, ha diciamo perduto questo côté che era un po' utopico ideale di quegli anni, però questo tema dei bisogni radicali li ha portati, lei e il marito, a parlare di una dittatura dei bisogni, proprio perché invece i bisogni che il grande padre Stalin e tutti i suoi nipotini eccetera curavano eccetera, erano bisogni chiaramente precostituiti, no? Era diciamo una costruzione ideologica di determinati bisogni e non di altri. Per cui, se tu, come dici, il tema dei bisogni oggi è trascurato, può darsi che anche lì ci sia qualcosa insomma di interessante da tirare fuori. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, io appunto confesso che forse la mia affermazione della double bind, quindi della contraddizione insolubile tra sviluppo e sostenibilità, è un'affermazione un po' campata in aria, visto che non faccio i conti con l'economia, eccetera. D'altra parte, forse, insomma, dobbiamo anche renderci conto che ci sono dei passi inevitabili, probabilmente anche per quanto parziali, che devono essere fatti, no? Nella modifica dell'economia, delle leggi almeno di oggi dell'economia. Però non possiamo pensare che questi siano risolutivi, no? Non lo so, è una precauzione di questo genere. Però ho dimenticato, e finisco, tu dici che anche il tema della disoccupazione non è così centrale. Io leggo però tante, diciamo, descrizioni della società in cui noi viviamo, italiana, pensate tutte le diciamo spiegazioni della, del trionfo di Trump in America, le leggo però tutte fondate sulla esistenza, in fondo anche il vittore della Lega oggi, no? viene spiegata sul fatto che ci sono ceti parte della popolazione che si sono sentite abbandonate, no? Allora, proprio trascurate, chi sono quelli? Sono i precari, non è che il precariato sia tanto, certo che serve, probabilmente ed è funzionale alla logica dell'impresa oggi, però mi pare che il precariato insomma sia visto per quello che è, no? E così pure è visto per quello che è il fenomeno dei cinquantenni che vengono licenziati, che non possono più trovare lavoro, come anche insomma, i famosi disoccupati di Detroit o di non so dove. Quindi in questo senso mi sembra di capire che c'è da anni un'atmosfera in cui si dice ma la prima cosa è sbarcare in un aereo, cioè non c'è più insomma la questione di vivere bene, nel senso anche di dare un senso non economico di sopravvivenza a quello che si fa, è il senso, il cosiddetto senso della crisi, no? Intanto parlare di crisi permanente è un altro insomma dei paradossi. La crisi, diciamo proprio etimologicamente, è un'inversione, no? Viene dal linguaggio medico, cioè la crisi o fa guarire oppure fa morire, no? Viene dal linguaggio medico. Allora una crisi permanente è una contraddizione in termini. Allora, dato che viviamo in questa massa di contraddizioni in termini, per cui una crisi permanente cos'è? Tutto in crisi ormai, no? Ecco, allora ancora una volta vuol dire che siamo diciamo immersi in questa atmosfera in cui è vero, sembra che tutto venga ridotto, il prezzo viene abbassato, no? Insomma questi grandi pensatori ci sono, secondo me Arendt, Patochka, Kosik, pochi giovani Patochka, insomma ci sono dei pensatori del Novecento che invece ci insegnano tutto il contrario, perché forse oggi, ecco per esempio ieri a Milano c'è stata una commemorazione di Václav Havel, no? Che insomma, grande dissidente, eccetera, è un po' dissidente della Repubblica Ceca, e questa commemorazione era incentrata sul fatto che lui ha fatto appello prima e dopo diciamo la caduta del muro, ha fatto appello alla responsabilità individuale. Io che stavo leggendo cose su Jonas, mi sono detta, ma come la mettiamo? Cioè, la responsabilità di Jonas non è una responsabilità individuale nel senso in cui la intendeva Havel, e sicuramente l'ha intesa Patochka, l'ha intesa Arendt, no? Arendt che diceva quando tutti sono responsabili, nessuno è responsabile, che è un'altra domanda che dobbiamo farci. Io prima dicevo, siamo tutti responsabili, ma allora nessuno è responsabile, ma allora il famoso soggetto collettivo, insomma, Jonas è un altro aspetto che oggi, se voi leggete la bibliografia sull'antropocene, proprio non c'è, e il fatto che lui pensava che ci fosse un noi, no? Un noi che è responsabile, probabilmente allora, negli anni 70 o anche prima, forse era anche possibile pensarlo, no? Oggi voi pensate che, infatti c'è una ricerca tra gli studiosi appunto ambientalisti di oggi, c'è proprio questo noi, com'è che lo ha? Ne abbiamo bisogno, no? Perché il problema del pianeta è un problema di ricchi e di poveri, di Asia e di Stati Uniti, per quanto con scarti, no? Di responsabilità. In questo senso il tema della responsabilità è veramente qualcosa che oggi ci interroga, volendo non possiamo non fare cose. responsabilità individuale, in un mondo in cui non ci sono più emblemi o rappresentanti collettivi, questo è un'altra via. Allora, sì. No, ma non solo che è colpa. L'individuo è un imprenditore di se stesso, dai, non è la stessa colpa. Il neoliberismo è fondato sull'idea che ognuno è imprenditore di se stesso. E dai, non è la stessa cosa la responsabilità individuale per esempio, come diceva Havel, un regime che impedisce la libertà di movimento, la libertà di espressione. Dai, c'è una bella differenza. Ma sono due cose, esatto. Lui ha dato un carcere. Quella è la linea, ma non è la linea, ma non è la linea, infatti non a caso gli ex oppositori, Heller, Havel, Kosik, nessuno se ne ricorda più. Io ho seguito questa vicenda, è caduto il muro, in Ungheria, in Polonia, in Cecoslovacchia, tutti sono buttati su Heidegger. E sul postmodern hanno saltato proprio questo pezzo di pensiero, è vero che erano stati anche marxisti, neomarxisti, allievi di Lukács, Kosik che era stato iscritto al Partito Comunista, non per nulla, dopo la caduta del muro hanno sbattuto per la seconda volta fuori dall'università, perché era stato iscritto al Partito Comunista, per dire l'assurdità, no? Questo pezzo, ecco, un compito sarebbe anche di ricostruire questo pezzo, no? Che proprio è stato seppellito dalle macerie del mondo, però loro non era che, si fossero tutti semplicemente sintonizzati sul problema di Stalin, del post-stalinismo, hanno pensato ben altro. No, qui questa discussione mi ha un po' stimolato. Intanto il problema della teoria dei bisogni, che cos'è il bisogno? Io credo che bisogna cioè un tempo il bisogno era essenzialmente dover mangiare, avere una casa e avere una salute rispetto alla malattia. Chiaramente adesso il bisogno è diventato qualcosa di diverso, perché a questo punto diventa bisogno dell'uomo anche difendersi dei processi di feedback, diciamo così, di intervento sulla natura che fa l'uomo stesso. Io non vedo una contraddizione fra bisogno e limiti dello sviluppo. Il problema è che a questo punto è bisogno dell'uomo riuscire ad agire in maniera da non interagire in maniera negativa, da non avere un feedback negativo nel suo intervento sulla natura. Quindi ha una salute per cui è anche l'occupazione, la disoccupazione sono anche diciamo, lo sviluppo economico, la ricchezza è legata a questo, non è più qualche cosa. Ecco, bisogna però convincere le persone, convincerle che appartiene ai loro bisogni ormai vitali, ecco, perché un altro problema, non so se Franzina è d'accordo con me, dell'ambientalismo oggi, che noi sappiamo praticamente tutto, perché si diffondono studi, statistiche, eccetera, ma non ci crediamo. Ci sono statistiche impressionanti che l'informazione, che oggi è molto diffusa sul riscaldamento globale, su tutto quello che volete, però in realtà si incontra un muro soggettivo, psichico. Non ci credono le persone. Allora, questo vuol dire che bisogna probabilmente incominciare ad aprire gli occhi. No, scusate, volevo dire una cosa, perché era... No, perché volevo, diciamo, Allora, mi riaggancio a quest'ultima cosa perché volevo riprendere quello che ho detto all'inizio, che stavo dicendo prima con lui, soltanto a mo' di battuta. In realtà, benché la questione sia appunto stata posta già negli anni 70 in modo molto evidente, molto chiaro, mobilitando anche non soltanto intellettuali ma anche movimenti già negli anni 70, direi senz'altro che la questione della coscienza ecologica non è mai diventata una priorità, cioè non è mai diventata diffusa una consapevolezza. In Germania è diverso, però anche lì con dei grandi alti e bassi, cioè è un'onda, non so come dire, gli anni 80 sono stati anni di grande espansione e a proposito del catastrofismo ci metterei Chernobyl, diciamo, a creare un passaggio non soltanto per il nostro referendum antinucleare, ma proprio con l'immaginario europeo della catastrofe, no? Ce l'abbiamo avuta qui nell'86, quindi insomma quello... Però, se voi poi guardate a tutto il dibattito, diciamo, sulle culture politiche anche trasformatesi, insomma, nel Novecento, non direi che l'ambientalismo è stato un nodo centrale intorno al quale hanno discusso, no? E questo è il punto, cioè, lo dicevo prima, noi abbiamo ragionato moltissimo della grande trasformazione della società della conoscenza, dei media, dell'informatica, ma in questa grande, no, la nuova società, ma no, io ho visto raramente impegnati poi in una discussione invece su quali erano le ricadute ecologico-ambientaliste di questa cosa. Questo lo dico perché ne parliamo da tanto tempo, lo sappiamo tutti, però appunto non è diventata mai davvero un'urgenza, non ha mai davvero dettato l'agenda. E questo secondo me è un punto che non possiamo eludere quando parliamo anche del successo di un autore come lui, no? Perché poi alla fine questa cosa, come dire, non siamo mai riusciti a trasformarla davvero, in Italia in particolare, ma non solo, perché appunto è più un'eccezione la Germania che non altri paesi, perché non è che appunto in Spagna, in Francia, in Inghilterra invece chissà quali, no, o i paesi nordici, sì, però insomma, diciamo, questa è una cosa che mi preme sottolineare, perché se uno dei problemi, ci diceva, è quello di capire come questa coscienza ecologica si forma e se non si forma come si fa a farla formare, no? E pedagogia, istituzioni, elite, cioè questo problema, evocazione della catastrofe, come dicevi tu, serve questo per diffondere una coscienza ecologica? Ma questa catastrofe, appunto, l'evocazione della catastrofe, cioè del negativo, della morte, può essere il terreno di costruzione in positivo di una... Questo appunto è secondo me un problema, rispetto al quale però vorrei, diciamo, aggiungere, rispetto al tipo di studi che ho fatto io, due piccole, diciamo, riflessioni. Una è che quando appunto venne pubblicato I limiti dello sviluppo all'inizio degli anni 70 in Italia si creò, come immagino saprete, un grandissimo dibattito, perché venne liquidato come il prodotto di un neomalthusianesimo, insomma, no? Una roba da ambientalisti borghesi, perché lì il problema era appunto, no, come il pianeta avrebbe sostenuto sostanzialmente la moltiplicazione della popolazione. No? Quindi le risorse finivano perché stavamo diventando troppi, e questo, diciamo, era una troppi a voler consumare le risorse, e questo, diciamo, è una cosa che per esempio in Italia per tutti gli anni 70 e per tutti gli anni 80 ha spaccato in fronti differenti la riflessione ambientalista, non è che c'è stata una corrente, no? E a questo proposito alcuni hanno caparbiamente tentato di distinguere tra limiti dello sviluppo e limiti della crescita, che sono due concetti diversi, no? Nel senso che se uno si pone il problema della sostenibilità, forse potremmo provare a ragionare, cioè, anche sull'idea di sviluppo che abbiamo in testa, perché sviluppo e crescita non sono esattamente la stessa cosa. E questo lo dico anche perché, per esempio, appunto, ormai non se ne ha praticamente più memoria, però in questo dibattito tutto il fronte che poi è diventato, diciamo, oggettivamente pronto a schierare, a prestare il fianco a politiche, insomma, non particolarmente radicali, però insomma, che rivendicava l'ambientalismo scientifico, no, di essere appunto un ambiente, era il fronte che tematizzava proprio il fatto che in realtà la natura è vulnerabile, sì, però la natura è sempre stata performata dall'attività umana, no? Cioè, non è che c'è mai, voglio dire, con un impatto completamente differente, ovviamente, dal prima al dopo dell'industrializzazione, però non è che c'è una natura statica che sta lì, che è buona, che ha un suo equilibrio, e gli uomini che impattano sulla natura. Cioè, è un'interazione che storicamente, no, abbiamo costruito. La natura è da sempre il prodotto anche dell'interazione, è ovvio, con proporzioni diverse. Però perché dico questo? Perché appunto forse il problema non è tanto, diciamo, tematizzare semplicemente l'impatto dell'uomo sulla natura, perché quello indubbiamente con la rivoluzione industriale è stato completamente diverso, però l'uomo ha sempre trasformato in qualche modo, no, la natura. E quindi diciamo, tematizzare il fatto che il tipo di, il modello di sviluppo che abbiamo da due secoli a questa parte è un modello che questo impatto che ha effetti di un certo tipo, ma che non è detto che debba necessariamente essere questo, no? Cioè, lo sviluppo, la distinzione tra sviluppo e crescita, appunto, non è detto che debba necessariamente essere il consumo della natura o il consumo delle risorse o lo sfruttamento della natura a fini. Perché uso questa terminologia? Perché dal mio punto di vista, appunto, è vero che siamo tutti responsabili, però non nello stesso modo. Cioè, voglio dire, è ovvio che nel porre il problema del riscaldamento climatico non sono assolutamente mai stata d'accordo su mettere l'Occidente progredito contro i paesi in via di industrializzazione che avrebbero dovuto porsi limiti e che poi non se li sono posti, perché è vero, tutti quanti poi abbiamo a ricaduta, anche loro, soprattutto loro, l'Africa. Diciamo, le coste africane sono, come dire, state in alcuni punti devastate, per esempio, no? Dall'inquinamento del mare, c'è, cioè, tutto il fenomeno dei rifiuti, cioè è una cosa, come dire, che è ritornata poi, non è... Però detto questo, non siamo tutti tutti ugualmente responsabili, no? No, lo dico perché mi preme continuare in qualche modo, appunto, non so, su questo sarò novecentesca, però mi preme continuare a sottolineare che il modello di sviluppo che abbiamo è un modello di sviluppo che ha degli attori precisi, ha degli interessi precisi, una delle accuse che viene fatta adesso, appunto, alla... come si chiama Greta, è che non tematizza la questione, appunto, dei rapporti di produzione, no? Capitalistici, la vecchia cosa, che mi fa ridere messa così, però è vero anche che non si può nemmeno dire che genericamente gli esseri umani, diciamo, hanno un impatto distruttivo sulla natura, nel senso che forse sì, però storicamente, che sappia io, l'impatto così distruttivo, l'impatto sulla natura ce l'abbiamo sempre avuto. Così distruttivo è da quando c'è questo modello. Non so se riesco a... Esatto, cioè, no, ma io, scusatemi, perché appunto continuo a credere che non si possa, parlando di crisi ambientale, parlando di crisi ecologica, non si possa eludere completamente il fatto che questa è una crisi che è stata prodotta, ripeto, da un preciso modello di sviluppo. Sì, no? Che peraltro adesso è stato introdotto in India, in Cina, esatto, in Russia, esatto, di cui adesso loro scontano, quindi, però, no, ma questo è una cosa complicata perché loro ci stanno mettendo assolutamente, ma allora, perché questo è il vecchio dibattito per cui l'avete fatto voi fino adesso perché non lo possiamo fare anche noi. Ma infatti non se ne sono 30 anni che si fa questa discussione. Le emissioni di CO2, scusate, come problem solving, scusate, ma viviamo in un mondo veramente in cui bisognerebbe ogni punto chiarirlo, no? Sì. Perché adesso che allora per scaricarci la nostra responsabilità, diciamo, va bene, voi avete il diritto di produrre più emissioni perché siete arrivati. E questa è la soluzione. Ma no, è ovvio che non è questo. Allora, bisogna essere più radicali. Forse. E infatti bisogna essere ancora più radicali. Partendo da proprio da queste contraddizioni, questi scarti, distribuzione diseguale della responsabilità. A proposito di questo dibattito che stanno svolgendo sulla famosa domanda che fare, perché questa è una cosa fondamentale da tutto questo che abbiamo detto e che ci si è detto, io volevo riportare un pochettino le parole che sono state dette da Vito Biagio qualche giorno fa sul manifesto, che parlava appunto anche che appunto in questo momento, proprio sulla spinta, diciamo, criticabile, non criticabile, che in questo momento non le giovani, ma le giovanissime generazioni perlomeno hanno assunto in prima persona, e bisognerà dire appunto, dice il diario, occorre il confronto, l'azione collettiva, la politica, la traduzione della conversione ecologica in progetti concreti, in rivendicazione e soprattutto in partecipazione. Perché questi sono gli elementi fondamentali di una democrazia che parla del futuro, che progetta e che quindi non si pone semplicemente in termini analitici, peraltro giustizie, quelli che sono stati detti fino adesso su una insostenibilità di uno sviluppo, ma noi forse, almeno a mio avviso, abbiamo bisogno di un qualche cos'altro, di vedere oltre. E quindi a partire, l'ho detto anche da Franzini, a partire dalle scuole, a partire perché il movimento è nato lì e per ora vive soprattutto e anche forse solamente, a proposito di disoccupazione e di situazione del lavoro, sopravvive questo movimento soprattutto nelle scuole e nelle università, che da settembre, perché sarà lo sciopero il 27 settembre, uno sciopero globale, almeno delle intenzioni di tutti quanti, dovrebbero trasformarsi in centri di informazione, di discussione, di educazione, ma anche di progettazione, perché questa a mio avviso è la parola chiave, di progettazione e soprattutto di coinvolgimento sui temi fondamentali della conversione ecologica nel riscontro fondamentale sempre dei quartieri, dei territori in modo particolare. E allora bisogna coinvolgere anche quelli che Greta chiama gli adulti, cioè praticamente lavoratori e i territori. Lavoratori e territori. Concludo velocemente con parole prese da Jonas sull'orlo dell'abisso nella intervista, quando dice: quanta speranza cela in sé il suo principio di responsabilità? Non ha bisogno di celare niente in sé, alcuna speranza, cela in sé un dovere, che non è il dovere kantiano, è qualche cosa forse anche di più, ovvero quello di non abbandonarsi al fatalismo, e questo già era un principio pedagogico ed educativo. Perché rassegnandoci suggeriamo in realtà che il destino che andrebbe, suggeriamo in realtà ciò che il destino andrebbe invece evitato. Con ciò abbiamo detto, ho detto, dice Jonas nella risposta, di vedere il dovere di non abbandonarsi alla rassegnazione. Ne parlava proprio come di una forma di attivismo politico. Ecco, io pensando all'immaginario della classe, quello che è passato soprattutto attraverso tema della catastrofe è sicuramente centrale, a partire dal fatto che molti oggi pensano alla catastrofe ecologica, eccetera, veramente in termini palingenetici. Sopravvivranno, a parte il fatto che poi se si leggono gli studi pare che chi ce la farà, nel caso di una ipotetica catastrofe, saranno o i super ricchi che andranno su un altro pianeta, oppure i super poveri, cioè quelli che, gli africani soprattutto, che sono abituati. Chi veramente perderà alla grande saremo noi, cioè la media borghesia, cioè noi che siamo abituati, insomma abbiamo degli standard di vita che quelli, tanto che questo già secondo me è una visione realistica, perché bisogna sempre avere i piedi per terra. In ogni caso ci sono grandi immaginazioni della catastrofe, secondo me insomma che negative, i film, Melancolia per esempio, no? Che un pochino più, anche tutta la climate fiction, no? Ecco, in cui c'è questa attesa palingenetica, qualcosa come una volta si pensava alle guerre, o forse qualcuno pensava anche adesso alle guerre che fanno fuori tutte le contraddizioni. Allora in questo senso veramente il pensiero della catastrofe è negativo. Un libro che consiglio di leggere perché è interessante è di due antropologi brasiliani, mi sembra, Viveiros de Castro, un uomo e una donna, adesso forse sto citando il cognome di uno soltanto, comunque sono due, pubblicato da Nottetempo, intitolato La fine che deve venire, una roba del genere, ecco, che usa molto Günther Anders, che come Beck invece ha parlato della necessità di attivare l'immaginazione, ma in un senso che l'immaginazione del futuro, anticipare qualcosa che non è ancora avvenuto, con una funzione di veramente rottura dello schema a cui tu hai fatto riferimento, no? Cioè qualcosa che non è reale e che peraltro però ci aiuta a prefigurare e ad essere vigili, che non pretende assolutamente, come i film, la climate fiction, eccetera, di dirci guardate che succederà quello, quindi cospargetevi il capo di cenere con tutti questi effetti, oppure così finalmente risolveremo i nostri problemi. Tutto il contrario, no? Proprio un'attivazione della capacità non di prevedere il futuro, ma di diciamo essere vigili rispetto a ciò che sarà inedito, no? Che effettivamente sfugge alla nostra immaginazione, nel senso proprio che non fai conti, no? Con la esperienza che noi abbiamo a disposizione. Nel caso di Beck, il suo discorso sull'immaginazione come momento di attivismo politico era prevalentemente, almeno come l'ho letto io, un discorso contro i cosiddetti esperti. Cioè lui giustamente dice che la società del rischio è una società in cui distingueva rischio e pericolo, vabbè, faceva le sue distinzioni, in ogni caso in cui non è alla portata anche degli esperti più sofisticati l'entità di ciò che è della posta in gioco. In questo senso allora lui metteva un limite, no? Diceva la prevedibilità, tutti i dispositivi oggi sofisticati che si hanno per prevedere ciò che accadrà hanno un limite di fondo, cioè non mirano veramente al rischio, visto che il rischio è l'imprevedibile, l'improbabile probabilmente, no? Si sottrae anche qua, Jonas diceva giustamente, al nostro controllo sostanzialmente, allora lì attivare l'immaginazione è un gesto politico, cioè anticipare in una dimensione che non è quella della realtà, no? Però ha un aspetto politico, nel senso che invece di fidarci di previsioni che poi verranno insomma confutate, c'è anche, non so, Jonathan Franzen che ha scritto un articolo che poi adesso è stato pubblicato in italiano nel 2015, in cui dice ma prevedono entro il 2030 nell'ambito della prossima sesta estinzione la estinzione di 30.000 specie di uccelli, lui fa bird watching eccetera, e lui dice sentite, chi ce lo dice che veramente, no? Perché ci sono anche narrazioni, no, catastrofiche, apocalittiche, che presumono di dirci che cosa succederà, mentre invece siamo di fronte al senza precedenti. Se succederà qualcosa è completamente inedito, no? Allora, io penso che questo che lei dice della difficoltà di uscire da schemi correnti, però possa essere affrontata proprio pensando che il divenire, quello che ci aspetta, veramente gli schemi correnti non ci arrivano. E la mente umana, però, io credo molto nell'immaginazione politica, oltre che in quella artistica e poetica, però quella politica è una capacità che bisognerebbe forse attivare un pochino di più, no? Bene, io sono, una domanda velocissima, perché sono questioni di interpretazione di una sera, ma lasciamo. Sì, quando forse dicevi che occorre essere più radicali riguardo a come affrontare la cioè, appunto, per me radicalismo è mettersi di fronte al senza precedenti, cioè un novum proprio che va oltre, come insomma l'espressione usata da Arendt per la Shoah e Eichmann, il senza precedenti, aveva perfettamente ragione, non avevamo strumenti, non a caso anche Arendt fa appello all'immaginazione in quella chiave, no? Non per trovare il senso di quello che è accaduto, ma per, diciamo, fare i conti proprio con questo limite che abbiamo. Allora, è un senza precedente, infatti c'è Clive Hamilton, un altro insomma di questi studiosi dell'antropocene, che parla della banalità del male nell'epoca dell'antropocene, e il ricorrere di formule arentiane non è, secondo me, privo di significato. Sarà che Arendt è diventata famosa, però probabilmente queste parlano ancora. Quindi il senza precedenti, l'inedito, l'improbabile, no? E poi guardare in faccia le contraddizioni insolubili, che non vuol dire assolutamente fermarsi, lasciare la malia, detto. No, no, però veramente è un gesto di realismo, di toccare la realtà, no? Che oggi è necessario. Questo per me è il radicalismo. Invece, insomma, come in questo tipo di discussioni complicate, tante volte insomma, si va un po' veloci. Ecco, io vi chiedo scusa, vi ringrazio molto anche di questa ultima parte di discussione.